Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Intanto, dopo i pochi click per creare la pagina, andai a prendere un bicchiere d'acqua. E quando tornai, vidi che i miei amici e persone a me strane aderirono a quella pagina. Prima 15, poi 30, poi 60, raddoppiando e quadruplicando esponenzialmente di giorno in giorno, fino a sfiorare i 400.000 odierni. Mi chiamo Daniele Previtali, abito a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. Ho 25 anni e studio giurisprudenza. Andiamo pure. Alice Munro, o Alice Munro, è la più grande autrice di racconti vivente. E la particolarità dei racconti è che funzionano soltanto se parlano di un momento chiave nella vita di un personaggio. Una decisione, un'opportunità colta o lasciata sfuggire, un tradimento, un impegno preso. Ed è questo momento a determinare ciò che il personaggio è. Non una qualsiasi tra le tante persone possibili, ma quell'individuo in particolare. Con i suoi racconti, lei mi spinge sempre a riflettere sulla mia vita, sulle cose che ho fatto e non ho fatto, su ciò che di buono e di cattivo c'è in me e sulla prospettiva della morte. Mi fa riflettere, in altre parole, sul significato. E dunque ricordo i suoi racconti come se li avessi vissuti in prima persona. Queste parole non sono mie, sono di Jonathan Franzen. Sono parole tratte dal discorso che lui ha fatto il giugno scorso alla cerimonia di laurea. Sapete che in America c'è questa usanza, no? Che un personaggio della letteratura e non va a tenere un discorso il giorno in cui si laurea una classe universitaria. In quel caso erano gli studenti della Cowell University di Santa Cruz in California. E lui, per raccontare quanto siano le storie ad essere importanti, quanto siano le grandi storie, i grandi romanzi, ha fatto l'esempio di questa autrice che si chiama Alice Munro, che è un'autrice di racconti, dicendo esattamente quello che noi non avevamo capito, ma cerchiamo di fare quotidianamente. Vi chiediamo una storia, un piccolo racconto della vostra vita che racconti qualcosa di voi, proprio perché, come dice lui, è quel momento chiave a determinare chi siamo. Ecco perché quando vi chiediamo di scrivere una storia non vi chiediamo la biografia, non vi chiediamo delle riflessioni, vi chiediamo un piccolo racconto, un racconto che vi racconti. Voi siete qui, @radio24.it. Ha fatto esattamente la stessa cosa Daniele quando ci ha mandato la sua storia. È una piccola storia che parla di una giornata particolare, una giornata in cui si annoiava particolarmente e gli è venuta un'idea. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma è Voi siete qui, Radio 24. Si parla di ozio o anche di noia. Facciamo in due maniere diverse. Lo facciamo tramite il racconto di Daniele e poi cercando di capire che cos'è l'ozio creativo, che forse ha a che fare con quello che stava facendo Daniele senza che lui lo sapesse. Se vi capita durante la giornata di tenervi un attimo per voi, proprio un attimo di ozio puro, in cui non vale leggersi libri, non vale leggere libri, non vale guardare la televisione, non vale giocare a un giochino sul telefonino, no, si parla proprio di fare nulla. Se ce l'avete, se lo fate, se lo avete, come dire, formalizzato, 349-238-6666. Se poi quel momento di ozio che vi tenete tutto per voi durante la giornata ha creato qualcosa, meglio ancora. E qualcuno mi scrive: ozio? Com'è possibile? Dovrei vivere 3 vite per poter oziare, ragazzi. Anche di meno, né? Sono 24 ore, ne dormiamo di solito 8 al giorno e poi ci sono i figli, c'è il lavoro, c'è il cane da portare a spasso. Tant'è. Però io credo che magari 5 minuti di ozio uno se li possa prendere. Il caffè dopo pranzo, scrive Chiara, accompagnato da un dolcetto. Che non è la stessa cosa, però. Ozio è proprio... parliamo proprio di niente. 349-238-6666. Questa è la storia di Daniele. Questa è la sua storia di ozio. Mi chiamo Daniele, ho 24 anni e sono di Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. Frequento la facoltà di giurisprudenza dell'università in città. Un giorno d'estate, 2 anni fa, mi annoiavo davanti al PC. Io mi reputo un ragazzo abbastanza creativo, però quello era un giorno caldo, sapete? Uno di quelli con neanche un filo d'aria, un'umidità incredibile. Insomma, uno di quei giorni che non riesci proprio a sopportare. Dico che sono creativo perché ho sempre 1000 idee per la testa, ho sempre qualcosa da fare e ogni volta che vedo per strada qualcosa, al supermercato, qualsiasi cosa, mi viene sempre in mente un'idea nuova da fare, da realizzare, un progetto. Lo studio mi annoiava, diritto privato era in stand-by. La radio non passava che la solita canzone tormentone e io ero di fronte alla home page di Facebook. Giusto per cercare di parlare con qualcuno e condividere la mia annoiata situazione, chissà, magari trovare stimoli esterni. Il caldo penetrante mi fece venire pure sete. E così, ormai colmo di insoddisfazione, a un certo punto esclamai una frase solitaria che suonava così: zero voglia. Pochi secondi dopo collegai le cose e decisi così di creare una pagina su Facebook per dirlo al mondo intero che avevo zero voglia e vedere se c'era chi la pensava come me e condividerlo per non annoiarsi, conoscersi o semplicemente dire il perché o di che cosa si aveva zero voglia, giusto per sentirsi più vicini. Intanto, dopo i pochi click fatti per crearla, andai a prendere un bicchiere d'acqua per appagare la sete e quando tornai vidi che i miei amici, ma anche persone a me estranee, stavano aderendo a quella pagina. Prima 15, poi 30, poi 60, raddoppiando e quadruplicando esponenzialmente di giorno in giorno, fino a sfiorare i 400.000 odierni. Quella frase, la frase zero voglia, è accattivante, divertente, diretta e facile da dire. Così decisi di registrarla alla Camera di Commercio, facendola diventare, dopo parecchi passaggi, un marchio. Non è stato semplice, ci sono molti uffici, molte persone, spesso poco cordiali, sperando che non mi sentano. Molte persone con cui parlare e regolamenti da rispettare, ma il momento del deposito è stato davvero una soddisfazione enorme. Insieme a tre miei amici, l'anno scorso, abbiamo deciso di farla diventare una piccola società, una SAS, con lo scopo di creare t-shirt nostre, ideate da noi e con quel nostro logo. E ora le vendiamo tramite un sito. I 1000 passaggi per valutare la fattibilità economica e la burocrazia sono stati spesso scoraggianti, ma devo dire che ce la siamo cavata. Non è stato facile e molti non si immaginano la quantità di lavoro che c'è dietro tutto ciò, la costituzione di una società, i preventivi sulla realizzazione dei prodotti, il sito, le tasse da pagare. Tutto questo è stato ripagato ampiamente dalla gioia di vedere realizzata la nostra prima t-shirt e la nostra prima vendita a persone che non fossero parenti o amici. Diciamo all'inizio un po' di diffidenza, nel senso che comunque come idea non era la più semplice da portare avanti, però comunque poi mi hanno sostenuto, soprattutto i tre miei amici che adesso sono i soci di questa piccola società, mi hanno dato una mano e adesso sono parte integrante come me della società. Stiamo ancora cercando di fare il salto, ovviamente, questo è vero, ma sono contento di aver trasformato un episodio casuale della mia vita in una realtà bella, seppur complicata, quale la gestione di una piccola società. La mia avventura vuole essere una dimostrazione che i giovani spesso non sono messi in una situazione semplice, considerata la giungla in cui si vedono abbandonati, ma che la passione e il desiderio riescono comunque a trasformare le avversità in realtà. I ragazzi di oggi non sono come quelli di una volta. Si annoiano. Quante volte avete sentito dire questa frase riferita a tutte le persone che hanno tra i 15 e i 25 anni? Frase che di solito sottintende la mancanza di stimoli moralmente validi. E anche una forma di avversione tutta adulta nei confronti dei moderni strumenti utili a passare il tempo. Che si va dai videogiochi ai social network, Facebook, per Twitter no, è ancora un po' presto. E quante volte avete cercato di ricordare la vostra giovinezza? I vostri modi di divertirvi, di passare il tempo, e soprattutto di annoiarvi. Ogni tanto, quando sento parlare della noia, ho la sensazione che la noia sia sopravvalutata e al contempo sottovalutata. Chi la sopravvaluta è molto preoccupato del fatto che la noia possa essere dannosa o nociva. Quando i genitori parlano dei figli che non sanno passare il tempo, ne parlano in maniera accorata e spesso giudicante, rievocando un loro passato che invece era sempre pieno di cose da fare che riempivano il loro tempo e il loro bagaglio di esperienze. Pensate, ci sono poche le persone che ammettono di essersi annoiate in gioventù e di averlo fatto con il cuore leggero. La noia, per chi ne ha paura, è sempre l'anticamera a qualcosa di grave che sta per succedere. Chi la sottovaluta, invece, pensa che la noia sia inutile. La immagina come un tempo e uno spazio vuoti, che, dal momento che non producono nulla, devono essere per forza riempiti di cose da fare, tipo leggere, studiare, lavorare o fare comunque qualcosa che sia o che almeno sembri utile. C'è stato un periodo nella mia vita in cui ero affetto da questa visione della noia. Ecco, in quel periodo la casa in cui vivevo era pulita come non l'è mai stata nessun'altra. Se avevo 5 minuti vuoti mi mettevo a lavare il bagno, i pavimenti, la cucina e lo facevo in punti in cui non dovresti nemmeno sapere che c'è qualcosa da lavare, tanto sono nascosti. Avevo lenzuola intonse e divani sempre sprimacciati ed ero diventato la persona più noiosa della terra. Per fortuna è durato solo pochi mesi, poi è passato. Quando ho letto il racconto di Daniele, quel periodo mi è tornato in mente, ma soprattutto mi è tornata alla mente quella frase che va contro l'opinione comune che si ha sulla noia, e cioè che la noia possa essere utile. Che non si deve sempre e per forza cercare di combatterla la noia, di scacciarla riempiendola di cose da fare. Che la noia ogni tanto bisogna assecondarla perché da lì possono nascere cose inaspettate, tipo un marchio per una società. Io non lo so a che punto sia la società di Daniele, se sta crescendo, se si sta trasformando in qualcosa di più grosso di un semplice profilo su Facebook, anche se è frequentato da 400.000 persone. Però questa storia dice qualcosa di particolare sul tempo non trascorso in faccende produttive, sul tempo apparentemente buttato via. Io non lo so come i ragazzi tra i 15 e i 25 anni oggi passino il loro tempo. Credo che in parte si annoino, come tutti. Però almeno so che Daniele quella noia l'ha sfruttata. L'ora della giornata è indifferente. Esco in balcone o mi siedo sul prato e guardo gli alberi e le montagne, il paesaggio di fronte a casa mia, senza fare nulla. Si sta lì e mi perdo. È un bellissimo momento di ozio. Ciao Roberta. E poi c'è ancora qualcuna, che Silvia, che scrive: bisogna saper oziare senza senso di colpa. Perché questa è la chiave di tutto. È la sensazione che quando non stai facendo niente, c'è questo senso di colpa che ti attanaglia. Oddio, non sto facendo nulla. 349-238-6666. C'è qualcuno che da quel non far nulla ha tirato fuori, direi, un marchio. Pronto, Daniele? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Per non mancare, diciamo, alla tua nomea, sei in vacanza in questo momento, giusto? Esattamente, esattamente. Sto continuando a oziare. Dove sei esattamente? Sì, esattamente sono a Trieste. Sei a Trieste. Relax. Bravissimo, perché hai avuto un'estate troppo stressante, giusto Daniele? Esatto, esatto. Devo scaricare un po' questa noia con un po' di relax. Senti, dimmi a che punto è il marchio. Cosa fa? In sostanza, che cosa fate? Scusami, per capire. Voi vendete magliette, giusto? Esatto, noi vendiamo magliette e non solo. Adesso abbiamo ideato anche le felpe e appunto con il marchio Zero Voice cerchiamo di trasmettere, riconoscere quasi come una tribù in questa zero voglia. Però scusami, Daniele, dunque è chiaro l'idea che volete trasmettere delle cose, in sostanza volete vendere delle magliette, però giusto, cioè l'idea è quello che ci sia un nome accattivante, come giustamente dici tu, che a cui delle persone, soprattutto della tua età immagino, perché io sinceramente non l'ho mai usato, quel è uno slang, no? Certo, sì, è uno slang, un modo di dire tra giovani comunque. Ma tra giovani fino a che età secondo te arriva una roba del genere? Non c'è un'età per esprimere la propria no, quello l'ho capito, però ti ripeto, forse sono, anzi sicuramente sono già anziano, però io non l'avevo mai detto prima in vita mia. Però detto questo, veniamo invece alla parte pratica, cioè la società, come l'avete costituita, vi siete messi insieme e avete fatto una roba che insomma non credo quanti coetanei conosci che hanno costituito una società, pochi? Ma nessuno, okay. Sinceramente. Quanti soldi ci vogliono per creare una SAS? Ma guarda, noi abbiamo tirato assieme i nostri risparmi, siamo in quattro, siamo quattro ragazzi, abbiamo tirato assieme tutti i nostri risparmi con 2.000-2.500 euro circa, abbiamo cercato di mettere in piedi tutto. Cioè quindi con 2.500 euro fai notaio, depositi, tutto quanto? No, ovviamente non è proprio così semplice, diciamo che bisogna cercare degli altri modi, diciamo, nel senso che bisogna cercare anche laddove ci si può risparmiare delle soluzioni. Sì, però scusami, Daniele, non ho capito alla fine effettivamente quanto avete speso per creare questa società e come sta andando adesso più o meno. Allora, 2.500 euro a testa, siamo in 4, okay. 10.000 okay, euro. Ok, perfetto, perfetto. Esatto. Senti, quindi la vostra si può definire una startup in qualche modo? Esatto, esatto. Stiamo appunto cercando ancora tutt'oggi di lanciarla, visto anche la situazione economica difficoltosa, stiamo ancora cercando di capire l'andamento, diciamo. Ok, tu da quanto esiste? Ma esiste da un annetto ormai. Sai che c'è una perché poi ti devo salutare, scusami ma siamo un po' in ritardo, perché so che c'è l'approccio americano per le aziende che iniziano, no? Per le startup è se devi fallire, fallisci in fretta. Per cui in modo che non perdi tempo, non perdi troppi soldi, impari da lì e riparti. Quanto tempo vi date per capire se è il caso di fallire o andare avanti? Ci diamo ancora un annetto, vediamo adesso di cercare questo salto e poi vediamo come andrà, diciamo. Va bene. Daniele, ti ringrazio molto, in bocca al lupo e buona vacanza. Ti credi? Ciao, grazie ciao, ancora. Ciao, ciao, grazie. 349-238-6666. Quando fumavo, mi dedicavo una sigaretta seduto nel solito posto in azienda e lì militavo solo a guardare quello che il mio lavoro era. E mi limitavo solo a guardare. Poi il resto è un messaggio intorcinato. Ma credo che fumare non rientri nell'ozio. Proprio si parla di fare niente. Ci ha mandato una foto da giovane, direi, Daniele. Lo ha fatto, secondo me, proprio con una scelta metodica. È un autoscatto ed è ovviamente davanti al logo del suo marchio, che direi non facciamo più, abbiamo capito qual è. Ha su degli occhiali da sole e ha l'espressione... Non saprei dirlo a me. Andate a vedere la foto sul sito di Radio 24. Ha l'espressione da ragazzo giovane. Ozio. Abituale, viziosa inerzia, per lo più dovuta a neghittosità, infingardaggine, scarso senso del dovere. Con senso attenuato, inattività, inoperosità, anche forzata. Periodo di quiete e di riposo, suggerito dall'opportunità di interrompere le abituali fatiche. Etimo, dal latino, ozium, data inizio secolo XIV. Mamma mia, neghittosità, infingardaggine, aiuto. Starei ad ascoltarla tutto il giorno. La nostra Alessandra De Luca che dice le parole del nostro dizionario. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it. Si parla di ozio, si parla di non fare niente oggi. Uno dei più bei ricordi della mia adolescenza, scrive Corrado. I caldi pomeriggi d'estate ad oziare in attesa del fresco della sera, con i miei pensieri che inseguivano il pulviscolo tra le fessure delle persiane. E poi ancora, ciao Matteo, sono Luigi, mi ritaglio un momento di ozio guardando il mio gatto Vasco che dorme, mi rilassa molto. solo guardarlo che dorme. Tu pensa accarezzarlo. E poi mi è arrivato questo messaggio: l'incipit dedicato alla sua pipa di Jérôme, che è Jérôme in Pensieri oziosi di un ozioso. È un libro che ho cercato adesso al volo. Non ho trovato l'incipit, però ho trovato un pezzo che comunque è magnifico, che è tratto da un altro capitolo, il capitolo sull'essere pigri, sulla pigrizia, e che dice così: io aspetto con ansia un'epoca in cui noi uomini non avremo più nulla da fare e ce ne staremo a letto fino a mezzogiorno. Leggeremo due romanzi al giorno, ci ritroveremo tutti insieme per dei deliziosi tè delle 5 e non ci affaticheremo il cervello con argomenti più ponderosi dello studio degli ultimi modelli di pantaloni e delle disquisizioni attorno alla giacca del signor Jones e sulla stoffa di cui era fatta e se gli stava bene oppure no. È una prospettiva gloriosa per i pigri. Questo è tratto da I pensieri oziosi di un ozioso di Jérôme, che è l'autore di Tre uomini in barca, giusto? E ci dicono che l'incipit dedicato alla sua pipa è perfetto, però al volo così non lo riusciamo a trovare. 349-238-6666. C'è però un aspetto che in realtà è il succo della puntata di oggi, ed è dal non fare nulla scoprire qualcosa e creare qualcosa, che in qualche modo riguarda quello che è stato definito ozio creativo, che non è esattamente quello, cioè non è esattamente non fare nulla e aspettare che ti venga un'idea. È una cosa un po' più complicata, che è stata teorizzata da Domenico De Masi, che è un sociologo contemporaneo e vivente, giusto Tiziano? Contemporaneo e vivente, che sostiene in pratica che l'ozio creativo sia fatto di tre cose che sono messe insieme, che sono il lavoro che produce ricchezza, lo studio che produce sapere e il gioco che produce allegria. Insomma, prendete queste tre cose, mettetelo insieme, fateci un cocktail, questo è l'ozio creativo, che detto meglio è questo qui. Che cos'è l'ozio creativo? Nella società post-industriale, in cui la creatività predomina sulla manualità, i confini tra lavoro, studio e gioco si confondono. Questa fusione genera l'ozio creativo. Una situazione in cui si lavora senza accorgersi di farlo. Il termine ozio non deve far pensare a una situazione di passività. Per gli antichi romani il termine ozium non significava dolce far niente. Significava un tempo libero da impegni nel quale era possibile aprirsi ad una dimensione creativa. Nella società attuale, la maggior parte dei lavori ripetitivi, noiosi, è stata delegata alle macchine. All'uomo quindi è rimasto il monopolio sulla creatività. Rifacendosi alla tradizione delle favole antiche, potremmo pensare alla cicala e alla formica come esponenti di due approcci opposti alla vita e al lavoro, che invece troverebbero sintesi nel concetto di ozio creativo. Mi spiego. Mentre la cicala si dedica all'ozio ma non è per nulla creativa, nel senso che non produce ricchezza ma si limita a godersi la vita, la formica è fin troppo laboriosa e pur accumulando ricchezza sotto forma di scorte alimentari non si gode la vita e muore di fatica. L'ozio creativo è una sintesi tra queste due tesi e antitesi, tra piacere e dovere. Imparando l'arte dell'ozio creativo, riusciamo a mescolare il piacere del gioco con il dovere dello studio e del lavoro, fino a farli diventare un tutt'uno, in cui, proprio perché si perdono i confini, si annulla la componente faticosa del lavoro e si recupera la componente creativa e utilitaristica della creatività, derivante dal piacere del gioco. Last night all my attention squinting westward at the sunset with a map and a compass when a man reached up said something there against the sky a point of light. A Jérôme K. Jérôme, che prima ho pronunciato Jérôme, chiedo scusa per la pronuncia, piaceva raccontare che l'ozio, quello vero, esiste solo in contrapposizione al lavoro. Il dolce far niente non esiste, la pigrizia non ha senso quando impigrirsi è l'unica cosa da fare. Il momento in cui lui preferiva starsene con le mani in mano, meditando e ragionando tra sé e sé, era proprio quando aveva la scrivania sommersa da lettere di ogni ordine e grado. 349-238-6666. La mia stupenda noia è tra le nuvole, viaggio molto in aereo e la mia è lì, attraverso un oblò. Stefano è ancora. Roberto dalla A1 mi dice: ogni mattina appunto la sveglia 15 minuti prima per dedicarmi un sano quarto d'ora di ozio a letto. Vi auguro un sacco di ozio da qui alla fine della giornata, perché abbiamo finito anche oggi. Grazie a Tiziano Bonini, a Pietro Lacorte, a Margherita Hina. La storia di oggi era la storia di Daniele, e anche lui da oggi è un punto rosso su una mappa. Ciao a tutti, sono Marco Parolini, sono di Trento, il racconto di domani è il mio e vi racconterò di quando sono rovinato a terra durante l'allenamento per la maratona, cioè la Ronda Ski Marathon. Questa è la mia storia e io sono qui.